salvi sulla strada alle 8 di mattina. Per andare al lavoro devi uscire un anno prima, lavorare tutto il giorno, a che cosa poi ti serve? Se a 18 di ogni mese ti ritrovi sempre al verde. Quando a fine settimana te ne vai in riva al mare, trovi mille facce bianche rivoltate verso il sole. Quanta gente arrampicata sulla cima di uno scoglio, acque rosse, acque gialle, inquinate dal petrolio. Sei qui non cambia vento, è meglio ritirarsi in un convento, vivere in tranquillità e non morire. Tutte le ore, alla sera, stanco morto, non hai tempo per l'amore. Tutto quello che ti ho detto sono cose risapute. Alla fine quel che conta è soltanto la salute.